La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale di Radio 24, puntata di metà gennaio con numerose uscite, numerose novità nelle sale cinematografiche italiane, alcune anche di grande impatto sotto il profilo della distribuzione, non sempre altrettanto sotto quello della qualità. Ne parleremo durante la nostra puntata, avremo come sempre ospiti, voci originali dal cinema e tutte le novità del grande schermo. Cominciamo subito quindi a condensare i nostri titoli di testa. Torna sul grande schermo la saga dei Fockers con Vi presento i nostri. Ben Stiller e Robert De Niro si rincontrano e si scontrano grazie all'arrivo di due bambini. Arriva in Italia la versione cinematografica del bestseller di Mordecai Richler, la versione di Barney, 30 anni nella vita di un ebreo canadese che si ritrova a fare il bilancio della sua esistenza. Nel parco di Jellystone torna l'orso Yogi con l'inseparabile amico Bubu con una nuova avventura in 3D. Questa volta gli orsi più maldestri dei cartoons aiuteranno il Ranger Jones a non far chiudere il parco. Il regista belga Olivier Barcot ci porta nella clinica del dottor Kruger con la grottesca commedia Kill Me Please, che affronta il delicato tema del suicidio, vincitore del Festival di Roma. La mia ricerca genealogica mi ha permesso di rintracciare la famiglia Burns fino al 1643. C'è sempre stato un patriarca a guidare la famiglia nei momenti belli e brutti. Perciò ti chiedo, Greg, se io mancassi, sei pronto a essere... Il Don Fotter. Il Don Fotter. È un atteggiamento, Greg. È il modo in cui ti comporti che fa capire agli altri che il capo dei capi sei tu. Harry, ti mangi la tua lasagna? Ha detto di avere un po' di nausetta, perciò... Harry, sono tuo padre e ti sto chiedendo di mangiare la lasagna. Grazie, figliolo. E come è andata a finire quella lasagna? L'avete immaginato, avete potuto capirlo. Cominciamo, come avete intuito, con Vi presento i nostri, terzo capitolo della ormai saga di Ti presento i miei, ancora con praticamente tutto, gran parte del cast originale, su tutti Ben Stiller e Robert De Niro, che sono, come dire, i due motori dell'azione, suocero e genero, che non si sopportano assolutamente e che rappresentano due stili di vita completamente diversi, che si trascinano anche nell'educazione, questa volta soprattutto dei bambini. Quindi Greg Fotter, in italiano, ma Fockers in americano, sfruttando anche delle assonanze che potete immaginare, e Pam Bynes sono da poco diventati genitori di due bambini, e quando nonno Jack se la vede male sotto il profilo della salute, la preoccupazione di trovare un erede al suo ruolo di padrino, che viene accentuato anche, come avete sentito dalle musiche, aumenta, divarica quella che è la questa idiosincrasia fra i due protagonisti. C'è tutto questo e poco di più in questo terzo capitolo della saga. Noi ce lo facciamo confermare da Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Direi anche poco meno, caro Franco, perché insomma si sfruttano delle dinamiche già trite e ritrite dopo i primi due capitoli, e qui scendiamo sempre più in quella, diciamo, volgarità che davvero, se la sentissimo da Neri Parenti o Carlo Vanzina, ci farebbe ridere, ma a partire, se vogliamo, proprio dal peccato originale, da quelle assonanze di cui tu parli. Insomma, Parenti ha vissuto minuti più difficili per aver dato il nome La Desse o Della Fregna, quindi voglio dire, francamente, bisogna essere onesti e mazzolare gli americani come gli italiani, se la pensiamo in una certa maniera, e in questo senso devo dire che veramente l'effetto della comicità, volgare o non volgare che sia, è sempre più insomma facilotta e facilona. Sentiamo un'altra clip, sempre tratta dal film Vi presento i nostri. Papà? Sì? Posso scalare quel muro di roccia? Sì, va bene, ma sta attento. Va bene. Pensi che ce la faccio? Perché? Che c'è? Non credo tu gli abbia instillato la fiducia fisica per scalare una parete del genere. Jack, mi faccia un favore. Allenti un pochino le redini, d'accordo? Le allenterò, Greg, quando mi mostrerai una volta per tutte che hai i requisiti per guidare. Io ho il controllo della mia famiglia, va bene? Se do a Henry il permesso di scalare una parete, può scalare una parete. Se dice che vuole scalare l'Empire State Building e io dico che va bene perché comando io, d'accordo? Ora le mosse le decido io. Lei deve fare un passo indietro e accettare il fatto che ci sono io adesso. E anche in questo caso avete capito il tonfo, insomma, il bambino evidentemente sulla roccia c'è stato poco. Boris, eppure, in America 123 milioni di dollari di incasso, in Italia è un film comunque che può fare la sua strada, vedremo, perché arriva in Italia in un momento di controtendenza proprio rispetto a questo tipo di commedia. Abbiamo parlato anche la scorsa settimana del fatto che si sta affermando una commedia italiana sicuramente popolare, sicuramente divertente, magari a volte anche senza tante pretese cinematografiche, ma che non parla il linguaggio della volgarità, cerca di parlarne degli altri. Ecco, li importiamo dall'America quando finiamo di produrli noi? Probabile, anche perché devo essere sincero, la dinamica tra Ben Stiller e Robert De Niro è sicuramente meglio di molti dei nostri progetti comici, insomma, più volgari, e quello sicuramente regge insieme alla atavica paura che tutti quanti i generi provano per i propri suoceri, diciamo che è quasi un riflesso condizionato, ecco, non si può non ridere quando i due si confrontano, non si può insomma rimanere ipnotizzato quando i due si confrontano, non si può provare quella paura che poi vogliamo, insomma, per cui vogliamo percorrere il processo di catarsi della risata, quando il povero Stiller viene massacrato dal buon Don Fotter. Però è davvero un modo facile di arrivarci senza l'efficacia che c'era nel primo, che effettivamente era stata comunque una bella intuizione e che già nel secondo era andato, insomma, morendo. Peraltro c'è, rilevo, un'idea di sceneggiatura secondo me interessante, quella di questi due bambini che, insomma, dovrebbero essersi divisi di fatto i cromosomi dei nonni, che non viene utilizzata quasi per niente e che invece poteva essere davvero la linfa vitale di questo terzo capitolo. Non so se c'è già in progetto il quarto, io devo esatto. dire, mi auguro che no. Forse dobbiamo farli crescere per sì, fare esatto. il film su di loro. Allora, grazie Boris, rimani però con noi perché fra poco ti tiriamo in ballo di nuovo per parlare di un altro must assoluto della Hollywood di oggi, ovvero l'Orso Yogi. Non ridete troppo, ma insomma, arriva anche l'Orso Yogi nelle nostre sale, quindi sarà il momento con Boris Sollazzo di parlare anche di questo. Ultima clip di Vi presento i nostri e poi Viabilità. Sta mandando a monte il colloquio. Vuole farlo cadere con queste domande. Sam regge meglio ai test, perciò... Beh, perché lei ha preso da... Ha preso da chi, Jack? Diciamo che ho fatto delle ricerche sui gemelli. Secondo una teoria, in certi casi un gemello prende un cromosoma in più dal padre, mentre l'altro prende un cromosoma in più dal lato materno. Sam potrebbe essere per tre quarti Burns e Henry potrebbe benissimo avere una doppia dose di Fafotte in lui. E se anche fosse... Nonno Benny mi ha insegnato questo. Tirami il dito. Oh. Doppia dose. La rosa purpurea. Grazie, Barney. Allora, mi ho alto prelato. Hai letto i libri che ti ho mandato? Qualcuno l'ho letto. Qualcuno? Sì. Ti ho mandato Gogol, ti ho mandato Heine. Che hai fatto tutto questo tempo? Fammi che svengo, che mangiamo? No, non lo so. Veramente mi sto per sposare. Con chi? Con me. Prevedo guai. Il principe della seduzione mi ha ingravidata con un magico mezzo minuto di strusciatine. Dove diavolo eri finita così? Sì, sono rientrata a casa stanotte. E chi se lo ricorda? Vi ha detto di che si occupa adesso? No. Esporta olio d'oliva, lo vende a un certo Jaime che vive a Montreal. Sembra una brutta sitcom ebrea. Qualcuno deve guadagnare da vivere. Viene in Europa e vende olio, è veramente umiliante, cazzo. Non sei uno di noi, sei un voyeur. Bene, un brindisi ai nostri sposini. Comincia così, con l'annuncio di matrimonio, la versione di Barney, adattamento cinematografico di uno dei libri di culto della letteratura internazionale degli ultimi 15 anni. Pubblicato nel 97 da Mordecai Richler, morto 4 anni dopo, quella storia di 30 anni della vita di un ricco ebreo che affida alla sua memoria, troppo ballerina, il bilancio di un'esistenza, ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo e ha avuto in Italia uno dei suoi feudi più fertili. Ecco perché il film che segna l'esordio alla regia di Richard J. Lewis è uno dei più attesi di questa stagione. Ad interpretare Barney è stato chiamato Paul Giamatti, uno dei più brillanti caratteristi del cinema americano contemporaneo, lungo percorso di gavetta con grandi maestri che vanno da Sidney Pollack a Woody Allen, poi l'affermazione con Sideways, il film sull'amore per il vino che nel 2004, forse lo ricorderete, veicolò una vera e propria passione per i vini californiani in tutto il mondo. Scelta azzeccata quella di Paul Giamatti perché, come si suol dire, da solo vale il prezzo del biglietto. Dicevamo promessa di matrimonio. Barney, dal suo oggi pieno di vuoti di memoria, riapre le pagine del suo ieri, da lì, da Roma, da quando impalmò la ricca Mrs. P, Minnie Driver, una donna intellettualmente inadeguata. Ma fu proprio lì, al suo matrimonio, che Barney rimase fulminato da un'invitata. Una donna bellissima, newyorkese, colta e amante dell'hockey, come lui. Miriam era diventata, in quel momento, la donna della sua vita. Oh, stai bene con gli occhiali. Che ci fai tu qui? Scappa via con me. Che dici? Vieni via con me. Oppure resta con me, non mi importa. O posso venire io con te? Ti sei bevuto il cervello? No, però sono perdutamente innamorato di te, Miriam. Sono scombussolato, è pazzesco. Non essere ridicolo, ci siamo appena conosciuti. Al tuo matrimonio. Non è divertente? Barney, scendi subito dal treno. Non posso credere che stia succedendo davvero. Sta succedendo davvero. È così, è reale. Biglietti, prego. È straordinario, no? E non mi importa se è capitato al mio matrimonio, o a un funerale, o al mio capezzale. È capitato. A causa del suo carattere, della sua dedizione all'alcol e anche a un'altra mezza dozzina di vizi, il generoso Barney non riuscì a gestire quel ménage. Diventò distante e distratto e soprattutto non amava gli amici di Miriam, con la quale pure fece due figli. La perse, come perse il suo miglior amico Boogie, e per tutta la vita dovette respingere anche l'accusa di averlo addirittura ucciso. Ma che ti è successo? Boogie, che cazzo ti è successo? Niente. Non mi è successo assolutamente un bel niente. E questo tu lo prendi come un'offesa personale. Io non sono una tua creatura. E non vivo la mia vita come piacerebbe a te. Non sei mio amico? Ah! Aspetta, ma ti rendi conto che non ci hai neanche provato a chiedermi scusa, cazzo? Io ti voglio consigliare un altro libro che devi assolutamente avere sul tuo scaffale, Barney. La biografia di Heinrich Heine. Quando era sul letto di morte, i suoi cari lo invitarono a chiedere perdono al Signore prima di morire. Ma il buon vecchio Heinrich, sai che cosa rispose? Dio mi perdonerà sicuramente! Dopotutto è il suo cazzo di mestiere! Il tutto sotto gli occhi attenti e perfino orgogliosi di tanta stoltaggine del padre, l'ex poliziotto Itzi Panofsky, deliziosa interpretazione di Dustin Hoffman. Sentiamolo regalare al figlio una pistola, incartata alla Belle Meglio, per il suo matrimonio. Che cosa hai in tasca? Me l'ero scordato. Che cosa? Il tuo regalo di nozze. Cristo santo! La mia prima pistola. E voglio che l'abbia tu. Non so che cosa dire. Non dire niente, dammi un bacio e prendimi da bere. Più che un film, la versione di Barney è un flusso ininterrotto di coscienza. La coscienza di Barney Panofsky, un uomo che non ama le buone maniere e soprattutto non le confonde mai con l'amore e con la partecipazione emotiva. Un uomo con molte qualità e molti difetti, Barney, che racconta la sua versione di una vita insieme di successo e un po' gettata alle ortiche. I temi di ciò che poteva essere e non è stato, e di quanto ci sia consentito di essere veramente noi stessi, sono le spine dorsali del film. Barney ha cercato di spingere la sua vita sempre verso la sua vera natura, ma non sempre questo è possibile, fino in fondo. Giamatti è superlativo, Dustin Hoffman sa fare la spalla, la Miriam di Rosamund Pike assolve il compito, così perfetta da non farsi amare. La regia è il vero punto debole, così diciamo. Lewis viene dai telefilm e si vede, nessun volo, nessuna presa di responsabilità, non si ricordano scene memorabili, non certo per come viene mossa la macchina da presa, quanto magari per qualche scena madre in termini di recitazione, ma forse è meglio così. Nelle centinaia centinaia di pagine di uno dei libri più amati di sempre c'era già tanta carne al fuoco, che forse è stato proprio il fatto di sottrarsi un elemento per lasciare che il film si svolgesse. Si svolgesse però, come dicevamo, in maniera abbastanza piatta, abbastanza cronologica, senza un colpo di genio che potesse nobilitarlo. Andiamo a sentire la voce di Paul Giamatti, che racconta così, in pochissime parole, l'approccio a questo film. Fondamentalmente il film si basa su un romanzo che racconta 30 anni della vita di un uomo con tre matrimoni diversi. Quando guardi la parabola dell'intera vita di quest'uomo, capisci che è un individuo davvero difficile e pazzo. E sostanzialmente è quello che è. È un grande, ma veramente grande, ritratto di vita. E sempre Paul Giamatti racconta invece quella che è stata la lavorazione, il suo entrare nel personaggio di Barney. È stato davvero bello recitare questa parte che mi ha impegnato per un lungo periodo di tempo. Il film è molto divertente, anche se a volte può essere triste. C'è la vitalità, la problematicità e la pazzia del personaggio, come c'è un sacco di vita in lui. Ed è stata una cosa fantastica entrarci dentro. Alla fine non ho fatto molta fatica. L'unica cosa da tenere a mente è stato solamente farlo. È stato bello interpretarlo. Era Paul Giamatti, tra l'altro, incredibile, non mi capitava da tanto tempo. Lui nel film recita tre momenti della vita diversa di Barney, distanti decine d'anni l'uno dall'altro. In tutti e tre i casi non sembra mai né invecchiato né ringiovanito. Segno che davvero proprio nella sua mimica di attore, quello di entrare in età così diverse l'una dall'altra. Siamo alla prima traccia del film misterioso di questa settimana. Vi ricordo sempre, noi vi facciamo ascoltare tre frammenti di un film che dovete indovinare, e il primo che lo indovina il sabato e la domenica riceverà poi a casa il DVD, anzi sempre più spesso il Blu-ray, alta definizione, di questo film. Ascoltiamo la prima traccia. Non preoccuparti, non ti ucciderò. Tanto poi rinasceresti e la caccia continuerebbe. La Rosa Purpura è @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, se no restate in ascolto perché fra poco vi proporremo delle altre possibilità. Oh, e siamo arrivati all'Orso Yogi. Io rimetto in collegamento con noi Boris Sollazzo, non perché lui sia un degno, anzi un pochino sì, ci potresti fare l'Orso Yogi, Boris, diciamo la verità. Insomma, un po' le physique du rôle ce l'hai, Franco. ecco, lo sapevo. No, scherzi a parte. L'Orso Yogi è stato un mito davvero dell'infanzia di molti di noi, e il cinema nella sua nuova corsa verso l'oro del 3D non poteva non farsi sfuggire questa possibilità, quella di riportare in auge personaggi come Yogi e Bubu, che hanno appunto fatto la storia di una televisione d'animazione totalmente bidimensionale. Forse devono anche a quello il loro grande successo, la grande fantasia che scatenava il parco di Jellystone e tutte le loro bravate per assicurarsi il cestino della merenda dei malcapitati visitatori. Ebbene, tutto questo adesso in 3D, quindi molto peloso, molto, come dire, no? Visibile, quasi tattile. È un po' l'escamotage che viene applicato a tante divinità del passato dall'animazione per cercare di dargli appunto una nuova dimensione, la terza dimensione. Ascoltiamo il trailer del film e poi la valutazione di Boris Sollazzo. Benvenuti al parco di Jellystone. E qui entro in scena io, narratore. Casa degli orsi più affamati della Terra. Giornata ideale per un picnic. Yogi e Bubu. Noi romperemo la barriera del picnic. Yogi, aspetta! Me lo presta un attimo. Hey! Qui ci vogliono Frizzi e Lazzi. Dobbiamo un po' esercitarci sui Frizzi e Lazzi. Lazzi, non razzi! Se il divertimento è in 3D. Tartaruga! Il loro motto è: ne voglio ancora! Vogliamo! Guarda che dice il manuale! Ci siamo noi che strilliamo! L'orso Yogi! Ti costerebbe tanto fare l'orso normale? Procurati il cibo da solo! Pensa che è un verme di gelatina! Yogi! Mi procuro il cibo! Boris, ti sei divertito a vedere Yogi? Allora, divertito è una parola grossa, anche perché per quanto possa essere immaturo citando un film di prossima uscita, Yogi è un po' troppo, un target troppo infantile per me. Però devo dire che ha un suo fascino, secondo me anche involontario in parte. Tu ricordavi appunto che Yogi è uno degli eroi della prima animazione. Pochi sanno che quel colletto che lui aveva, che era insensato, no? Era un colletto a cui appendeva la cravatta, ma che non aveva nessuna camicia, serviva per non fare vedere la giunzione tra collo e il resto del corpo, perché siccome si avevano pochi soldi, Yogi poteva solo muovere la testa, il corpo non si muoveva mai, e da qui nasce la sua camminata ciondolante, che poi invece è diventata una firma, ma che era puramente casuale. E se vogliamo, questa rigidità viene recuperata in pieno dal 3D, che soprattutto nell'animazione, se si esclude Zack Snyder, fa fatica ancora a trovare il suo Cameron, e che qui però è perfetta, perché Yogi è nato come goffo, orso, un po' panciuto, un po' tonto e soprattutto rigido nei movimenti, quindi non si fa fatica a seguirlo. Godibile anche il doppiaggio italiano, pur non richiamandosi agli storici doppiatori che io ho, insomma, squallidamente imitato. Per Choco è un film che sicuramente divertirà i più piccoli e che strapperà qualche risata anche ai loro genitori. Il rischio è che i nostri piccoli ormai non siano più così piccoli e che preferiscano l'orso non peloso che Cozzalone all'orso Yogi, cioè che il target per questi film in verità non esista più. Sia davvero cambiato, certo, no, questa è una possibilità sicuramente. La rosa purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea, ancora insieme, ancora novità al cinema, con un film che ha fatto parecchio parlare e parecchio discutere alla sua prima presentazione, che è stata al Festival di Roma nello scorso mese di ottobre. Se ne è parlato perché il tema, sebbene come dire, affrontato in termini di commedia nera, è un tema molto delicato, che è quello della morte, dell'eutanasia, e d'altra parte se ne è parlato molto perché questo film ha vinto il Festival di Roma, e quindi è una commedia, questo film belga, che è piaciuto molto anche alla giuria e anche molto al pubblico, che ha avuto un grande impatto con questo film. Quindi, come dire, adesso non resta che il giudizio della sala. Parliamo di Kill Me Please, lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Oggi è il grande giorno, ci diremo addio e lei non verrà più a chiedermi come mi sento oggi. Non sapevo ci fosse una clinica così. Sono pronto da quando avevo 7 anni. Entriamo subito nella clinica del dottor Kruger, che sembra un albergo di lusso dove si va a morire con in mano un bicchiere di champagne. In realtà il medico, fornendo una struttura terapeutica per dare la buona morte, cerca di far comprendere la fortuna di vivere e insieme tagliare il costo sociale dei suicidi, 1 milione ogni anno nel mondo. L'unica cosa che voglio è essere la prima persona morta oggi, ok? Io ero qui prima di lei, voglio morire prima di lei. Compassione, sì. Amicizia, no. Ci sono i personaggi più improbabili: un comico, una ragazza con una malattia che la obbliga a continue iniezioni, una cantante d'opera che non ha più voce e un uomo senza più moglie. Mi dispiace, your wife è morta da tanto? Ma non è morta. L'ho persa a una partita di poker. La morte, non programmata, arriva però improvvisa, fa paura davvero e non a tutti lascia l'ultimo desiderio. Mi piacerebbe, in verità, poter cantare la Marsigliese. Titolo di questo film doveva essere Dignitas, con rimando all'omonima struttura svizzera per l'eutanasia assistita. Per parlare di dignità e decoro nella morte, il regista Olias Barco sceglie una chiave grottesca, portata fino al surreale. Il rischio è cadere dalla commedia noir nello splatter, visto quanto sangue corre. Barco riesce a evitarlo, mettendo insieme quella che lui stesso definisce una farsa, e grazie a ottimi interpreti, il tutto girato con macchina a mano e in bianco e nero, una scelta economica che diventa stile. Rubando una battuta del film, si potrebbe dire: non pianga, se no mi costringe a farla ridere. Sì, si ride, ma sono risate veramente amare. Allora, questo è il racconto di Kill Me Please da parte di Chiara Pizzimenti. Dicevamo, Kill Me Please, reduce dalla vittoria a Roma nelle sale cinematografiche italiane, e il suo regista, Olia Barcò, è venuto in Italia per un tour promozionale del film. Ha girato diverse città. La nostra Chiara Pizzimenti ne ha intrecciato i percorsi a Bologna e lo ha intervistato per noi. Sentiamo. Nel nostro mondo si può acquistare la morte al Grand Hotel? Sì, il film parla di questo, di quello che oggi si può comprare. Viviamo in un mondo consumista dove tutto si compra. I voti politici, le prestazioni di una prostituta, la propria morte, tutto si può comprare. Il film comincia con questa clinica, come potrebbe funzionare nel migliore dei mondi possibili. E poi, a forza di giocare con la morte stessa si rivolta contro coloro che sono in questa clinica. Sono come fuochi d'artificio che esplodono, che lasciano entrare una furia da un altro mondo, completamente disordinato. C'è una definizione di questo film? Si dice, uno dei protagonisti dice, recito Molière, non Shakespeare, la farsa è finita, cala il sipario. Si può definire una farsa o è qualche cosa d'altro? Mi piace la parola farsa, l'idea di una farsa. Una farsa sulla società, sul mondo nel quale viviamo. È la commedia dell'arte completamente rovesciata, una danza mortuaria, come c'era un tempo, uno spettacolo un po' folle, con molto humor ironico. Quindi la parola farsa si adatta molto bene. C'è un film di ispirazione o un tipo di film di ispirazione? C'è un film che ho avuto come riferimento. Un autore italiano, Marco Ferreri, con La grande abbuffata. È il genere di regista che venero perché, parlando di temi forti, del consumismo, è arrivato ad avere nei suoi film una vera consistenza politica che oggi manca. Forse questo regista non è di moda oggi, ma per me è alla moda. Questo regista non è peut-être pas à la mode aujourd'hui, ma è alla moda per me. Ed era Olia Barcò, intervistato da Chiara Pizzimenti, per raccontarci Kill Me Please nelle sale cinematografiche italiane. Avete sentito anche l'omaggio al grande Marco Ferreri, questo anche sempre a ricordarci che c'è stato un cinema italiano forte che continua, nonostante siano passati decenni, a pervadere l'istinto creativo dei registi di oggi. Allora, noi siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di questa settimana. Sentiamo. Sembri un ragazzo per bene. Un bravo ragazzo. Potrai mai perdonarmi, ti chiedo. La rosa purpurea @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray. Vi ricordo sempre anche di inserire il vostro indirizzo privato per facilitare, ove chiaramente siate voi i vincitori, le operazioni poi di spedizione del Blu-ray. Più tardi un'altra possibilità. E prima di dedicarci adesso alla nostra nuova rubrica I Dispersi, insieme ad Alberto Brumana, che va un po' a segnalarci settimana per settimana i film che non ci hanno fatto vedere in Italia, i film che non sono stati distribuiti, nonostante spesso si tratti di grandi storie, di grandi attori o di grandi registi. Diamo un'occhiata alle classifiche, dello scorso weekend, ovviamente aggiornate a poco meno di 7 giorni fa. In Italia domina Checco Zalone, il suo risultato è storico e senza precedenti, perché dopo essere uscito di mercoledì, il 5 gennaio, Che bella giornata ha di fatto polverizzato il record di Avatar, pensate, per quanto riguarda gli incassi in Italia. E infatti alla fine del primo fine settimana di programmazione Checco Zalone ha superato i 18 milioni di euro di incasso, pensate, in praticamente solo 5 giorni, ed è un risultato storico. E quindi ci si chiede anche dove potrà arrivare. Potrà superare i 30 milioni di Benvenuti al Sud, che sembrava essere il dominatore incontrastato di questa stagione cinematografica al botteghino italiano? Probabilmente sì. E questo ancora una volta apre ulteriormente, sottolinea ulteriormente come questa, lo abbiamo detto con Piero De Tassis nella prima puntata dell'anno, come questo possa essere davvero l'anno della consacrazione della commedia italiana per quanto riguarda le fette di mercato del nostro paese. Beh, insomma, dicevo, primo posto per Checco Zalone con Che bella giornata, balza al secondo posto la new entry I Rafter di Clint Eastwood, anche questa era una novità, 3 milioni e 2 nei primi 5 giorni di programmazione, ottimo risultato anche per il vecchio Clint. Scende al terzo posto, ma si conferma vincitore del botteghino natalizio, La banda dei Babbi Natale di Paolo Genovese, tra l'altro Paolo Genovese che sta per arrivare nelle sale con il film Immaturi, di cui parleremo nelle prossime settimane, un film più bello di quello che ci si poteva forse aspettare. E ancora quarto posto per Tron Legacy, che in Italia non ha fatto poi tutto quello che ci si aspettava, scivola al quinto The Tourist a 10 milioni e 6 di incasso, pensate, e questo ha fatto molto di più di quello invece che forse meritava, per quanto almeno si è visto per come sono andate le cose in America, le cose in Italia sono andate molto molto meglio. E poi via via tutti gli altri, segnaliamo giusto per un fatto statistico al settimo posto Natale in Sudafrica, il cinepanettone di Neri Parenti di quest'anno, fermo a 18 milioni e mezzo, quando appunto I Babbi Natali sono arrivati a 20 milioni e 6, di questo sorpasso si è molto parlato. Voglio dare un'occhiata anche alla classifica americana, perché il 2011 non è iniziato in maniera esaltante, però c'è un film che è una vera e propria sorpresa a questi livelli di incasso. Parliamo di Il Grinta, film che ha rilanciato il western negli Stati Uniti, firmato fratelli Coen, e quindi come poteva essere altrimenti, anche perché il cast dice Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, quindi un film di quelli che hanno anche gli attori giusti per penetrare fra il grande pubblico. E allora Il Grinta in testa alla classifica con 110 milioni di dollari di incasso dall'inizio il suo sfruttamento. Al secondo posto Vi presento I nostri, che esce questa settimana anche in Italia, poi pian piano tutti gli altri. È partito male Season of the Witch con Nicolas Cage di Dominique Senat, ci si aspettava molto, solo 10 milioni nel primo weekend, è davvero uno dei risultati più deludenti di quest'anno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Chiusa la parentesi delle classifiche in Italia e in America, dicevo, parliamo di dispersi, parliamo di film che non si sono visti questa settimana, con un film che si intitola Youth in Revolt, e che è interessante non solo come film disperso, ma anche perché l'attore vero che lo interpreta, Michael Cera, è a sua volta un po' un disperso per il cinema italiano. Alberto Brumana. Ciao Franco, oggi parliamo di Youth in Revolt. Si tratta di un film uscito negli Stati Uniti all'inizio del 2010 e assolutamente inedito nei nostri cinema. Protagonista è Michael Cera, uno dei giovani attori più apprezzati oltreoceano, ma più sottovalutati in Italia. Basti pensare che dopo il successo di Juno, tutti i suoi film o sono arrivati in pochissime sale, come Anno 1, Nick e Nora e il recente Scott Pilgrim, che insieme hanno incassato, pensa, 250.000 euro, oppure non si sono proprio visti, come Extreme Movie, Pepe Heart e appunto Youth in Revolt. Nel film Cera interpreta il personaggio che ormai si è cucito addosso, cioè quello del ragazzo un po' sfigato, molto nerd e con tantissimi problemi con il sesso opposto, che vive insieme ad una madre irritabile e allo sconclusionato nuovo fidanzato di lei. Durante una gita fuori città, però, conosce la bionda Sheena. Lei è la ragazza dei suoi sogni, ma per poter stare insieme a lei si crea un alter ego, che è sfacciato e playboy, a cui dà il nome di François Dillinger. Con lui inizia una serie senza fine di disastri. Il film riesce in due obiettivi, a prima vista molto distanti tra loro: descrivere con ironia quasi grottesca la provincia americana e raccontare con delicatezza un sentimento adolescenziale. Insieme a Cera, un cast di tutto rispetto. Sheena è interpretata da Portia Doubleday, segnatevi questo nome perché ne risentiremo parlare, mentre in parti minori troviamo due vecchie rocce come Steve Buscemi e Ray Liotta e due giovani in ascesa come Justin Long e Zach Galifianakis. Il film è disponibile in rete come DVD di importazione e lo si può trovare a soli 7 euro, e in più sono scaricabili i sottotitoli in italiano sul sito degli amici di Italian Subs Addicted. E allora, grazie ad Alberto Brumana, che come sempre ci ha portato nei meandri dei film dispersi e quindi recuperabili in questo senso. La Rosa Purpurea. Quarta e conclusiva parte della Rosa Purpurea, e come sempre è la zona nella quale andiamo a vedere un po' cosa può offrirci una bella serata di cinema in casa con DVD, Blu-ray, ma anche con la televisione gratuita, ovviamente, gratuita come sempre. E lo facciamo come tutte le settimane con gli amici della redazione del settimanale Film TV, che ci hanno selezionato qualche proposta fra quelle dei palinsesti della prossima settimana. Cominciamo con un film horror davvero molto bello, tra l'altro talmente bello che, come al solito, gli americani, nonostante siano passati solo un paio d'anni, se ne sono innamorati e faranno un remake, anzi lo hanno già fatto di fatto, e uscirà questa stagione. Però facciamoci dire tutto da Giulio San Giorgio della redazione di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, bentornati con le segnalazioni di Film TV. Segnaliamo questa settimana, giovedì, su Rai Movie alle 22:30, Lasciami Entrare di Thomas Alfredson. Film dove si parla di adolescenti e vampiri, ma siamo decisamente a dei anni luce da Twilight. È un horror dove i personaggi sono raccontati con una capacità di sguardo che vale lo sguardo di Truffaut sull'adolescenza, ed è un film, una storia d'amore impossibile, con uno dei finali più struggenti, teneri, insieme ai melodrammatici degli ultimi anni. È un film di cui è appena stato fatto un remake, presentato al Festival di Roma e prossimamente nelle sale. Let Me In, il titolo del remake. Comunque, giovedì 20 gennaio, Rai Movie, ore 22:30, Lasciami Entrare, per vedere i film come vengono fatti da noi altri europei. Lasciatemi così trasparire un po' d'orgoglio, perché molto spesso i film nascono in un certo modo e poi dopo li vediamo, magari li conosciamo grazie al successo dei loro remake americani. Qui vale davvero la pena non farsi sfuggire questo film. Sentiamo invece qual è il secondo consiglio della redazione di Film TV, e cambiamo decisamente atmosfera ma anche decisamente autore. Sì, l'altra segnalazione è venerdì su Rai 3 alle 1:55 con Lo strano caso di Angelica di Manuel de Oliveira. Fuori orario sopperisce a una lacuna della distribuzione italiana e trasmette in prima assoluta l'ultimo film del maestro portoghese, giunto all'età di 102 anni. 102 anni portati con leggiadria, come dimostrato in un film che, con una sobrietà infinita, una raffinatezza immediata e un gusto surrealista, parla di temi complessissimi come la morte e la riproducibilità tecnica dell'immagine. Un grande Manuel de Oliveira, ultracentenario, ancora con una mano, anzi una mano che io trovo negli ultimi anni si sia fatta sempre più leggera rispetto al suo cinema, davvero straordinario. Venerdì 21 gennaio, Rai 3, ore 1:55 di notte. Se non siete svegli, puntate i videoregistratori, perché ne vale davvero la pena. Ciao Giulio. Ciao Franco, grazie mille, ci sentiamo la prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E allora, archiviata la parentesi dei consigli da palinsesto televisivo, andiamo invece a giocare per la terza e ultima volta con il film misterioso di oggi. La città è progettata per sostenere qualunque attacco. Se li tratteniamo al piazzale e al mercato aspettando la notte, quando avremo un vantaggio, ce la possiamo fare. Se ne lasciamo entrare troppi in città, col loro numero potrebbero sopraffarci. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, era l'ultima possibilità, l'ultimo passaggio per questa settimana. La settimana prossima l'annuncio dei vincitori del Blu-ray di questo film. E invece, 7 giorni fa avevamo giocato con un grande autore, sentiamo. Mi dispiace davvero per Cristina. Oh, andiamo, non far finta che ti interessi. Sono sicura che sei stato tu che l'hai incoraggiata a bere. Come del resto hai fatto con tutte e due a cena. E allora, avete sentito, questa era la terza traccia che vi avevamo proposto. Cristina, un accento spagnolo. Vicky, Cristina, Barcellona. Woody Allen per il game della scorsa settimana. Hanno indovinato per primi e riceveranno il Blu-ray del film Stefania Arzini di Arsago Seprio e Silvio Gobbi di Novara. Saranno loro a potersi beare di una bella visione di questo film del Woody Allen più recente, di cui sentiamo ovviamente la descrizione di tutta la produzione dal nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, l'edizione Medusa Film Home Entertainment in Blu-ray è sicuramente eccellente, rispettata l'originale cinematografia dell'opera con colori caldi e intensi. L'audio è DTS ad alta risoluzione in italiano e inglese, ma attenzione, solo 3 canali, perché Vero e proprio multicanale, sei canali cui siamo da sempre abituati tra DVD e Blu-ray, è assente, come del resto accade da sempre per scelta del maestro Allen. Per gli extra segnalo un approfondimento sul film a cura del giornalista Mario Sesti. Beh, insomma, è davvero divertente anche pensare a Woody Allen che mette il naso anche nei DVD e nei Blu-ray, e questo ci dà anche, come dire, lo spaccato di una personalità sempre molto molto pimpante, anche non facilissima, insomma. Comunque le sue scelte anche per come deve uscire il DVD e il Blu-ray dei suoi film. Noi cambiamo argomento con un film tutta azione e scoppie fiammate, si intitola, e dobbiamo andare indietro di qualche anno per recuperarlo, si intitola, dicevo, Fuoco Assassino. Ascoltiamo la clip. Come cazzo fai a uscirtene ogni volta con dei nuovi sistemi per fregarti con le tue mani, eh? Come quella cazzata del whisky. Dovrei credere che sei tornato a casa strisciando perché avevi nostalgia della gloriosa tradizione di famiglia. No, eri rovinato, bello mio. Ehi, senti. La cosa peggiore è che per un po' probabilmente l'avresti fatta franca. Sì, imboscandoti durante gli incendi. Sai come si fa. L'unico problema è che in questo dannato lavoro del cazzo non ci si può nascondere. A Chicago due fratelli pompieri vivono col drammatico ricordo del padre, anche gli vigili del fuoco, scomparso nel corso di un'operazione di salvataggio. In particolare il più giovane Brian, testimone della tragedia, vive un rapporto conflittuale al punto che non tutti nella squadra comandata dal fratello maggiore Steven si fidano di lui. Tra umane paure ed eroici interventi ci sarà da risolvere anche un piano criminale. Catastrofico film diretto con classe dal regista Ron Howard nel 91, arriva al Blu-ray da Universal di ottima qualità, ci sono pochissimi passaggi che palesano maggiore grana e qualche fotogramma sporco. Esaltante la traccia DTS in italiano, ulteriore dinamica per la DTS ad alta risoluzione in inglese, sono presenti tutti gli extra dell'edizione speciale DVD già edita, con numerosi focus sulla produzione dei pericolosi effetti speciali. E questo per quanto riguarda allora Fuoco Assassino, e cambiamo decisamente genere argomento con un film dal titolo molto affascinante, molto suadente e anche un po' filosofico, La fisica dell'acqua, sentiamo. Mamma? Sì? Quello che è venuto prima si compra a casa nostra? No, quello è un agente immobiliare. Io e lo zio l'abbiamo soltanto fatta valutare. Valutare? Tipo? Beh, se ci conviene, se riusciamo a metterci qualche soldo da parte. Magari ci possiamo fare dei bei viaggi. E quando torniamo andiamo in un'altra casa? Beh, vediamo. E lo zio torna in Australia? Non lo so. Che ti importa, scusa? E te? Alessandro è un bambino di 7 anni che ha perduto il padre a pochi mesi dalla nascita e vive una vita difficile assieme alla madre Giulia, spesso angosciato, sofferente per allucinazioni sull'elemento che lo terrorizza di più, cioè l'acqua. Per Alessandro giunge un ulteriore elemento di apprensione, ovvero l'ingombrante presenza dello zio Claudio, giunto dall'Australia, che lo spingerà a un gesto inconsulto. Giocato tra presente e passato, questo amletico thriller psicologico di Felice Farina è sicuramente da riscoprire in un video. Da Mondo Home Entertainment arriva solo il DVD, comunque di qualità molto buona, l'audio è Dolby Digital, ma attenzione, anche DTS multicanale sicuramente da privilegiare per la qualità d'insieme e da preferirsi per questa dinamica complessiva. Purtroppo non ci sono extra. La fisica dell'acqua, quindi, un film di Felice Farina, cinema italiano nella segnalazione del nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E allora chiudiamo qui la nostra puntata della Rosa Purpura. Prima però una notizia: avevamo settimana scorsa aperto un altro piccolo percorso, un altro piccolo sentiero di cinema nella nostra trasmissione, quel Cosa Fanno, che risponde un po' alla domanda che tante volte ci facciamo rispetto ad attori e registi che abbiamo un po' perso di vista magari dal loro ultimo lavoro. Ebbene, Michel Haneke, regista che ormai, diciamo, dopo il Nastro Bianco è consacrato a livello mondiale come uno dei massimi autori del cinema mondiale, regista austriaco, sta per cominciare il suo nuovo film, che ha cambiato recentemente titolo, si intitolerà Love, semplicemente Amore, invece di These Two, questi due, come doveva chiamarsi prima. È un film importante perché vedrà il ritorno di Isabelle Huppert sotto la guida del maestro, Isabelle Huppert che era stata la pianista, lo ricorderete, proprio per Michel Haneke, con il ruolo della figlia di una coppia di ex insegnanti di musica in pensione, sono due ottantenni, questa donna si ammalerà e metterà a dura prova questo sodalizio tra i suoi genitori. Questo è un po' il tema del nuovo film di Michel Haneke. Love comincerà a febbraio, cominceranno a febbraio le riprese, che dovrebbero durare circa 40 giorni, quindi ballottaggio fra il Festival di Venezia e quello di Toronto, si dice, per la presentazione, la prima mondiale. E con questa notizia noi chiudiamo